bramo. Mami, mami, ti bramo, ti bramo. E come non lamento, amo è poco e subito s'accende. Si subito dolcezza, lieta, lieta, men vado, men vado. Lieta, men vado, men vado, men vado. Madonna, non sarà, altro con non sarà, chi di nu sarà.